Questa mattina abbiamo una nuova occupazione in città, l'abbiamo chiamata In Out, in dentro la città, out fuori dal mercato. Il Tribunale di Santa Giuliana ha fatto discutere negli scorsi mesi, perché la proprietà, che è della chiesa, in particolare della congregazione delle suore mantellate Serve di Maria, ha deciso di vendere, di dismettere per vendere l'intero complesso, che ospitava una parte di convitto e una parte di scuola materna ed elementare. C'è stato chi ha portato avanti per mesi e mesi, con fatica e determinazione, una lotta per impedire la chiusura di questo complesso, per impedirne la vendita, e l'occupazione di oggi si mette nel solco tracciato da questa data qui. Dal canto nostro diciamo che vedere questi spazi enormi, vuoti, si parla di, abbiamo contato 72 posti pronti all'utilizzo, è inaccettabile vederli vuoti in questo momento in cui Bologna soffre una forte fame di spazi per abitare, per tante persone, siano studenti e studentesse, persone migranti, lavoratori lavoratrici precarie della città. Vediamo anche la situazione al caso di Via Mattei qual è, dove ci sono 800 persone, molte vivono nelle tende, per cui è evidente che qua a Bologna c'è un problema abitativo grosso, ormai lo sanno anche i muri, e questi posti, vederli in vendita, che potenzialmente pronti ad una gestione speculativa, crediamo che sia impensabile, crediamo che sia una cosa davvero fuori, diciamo, dalle logiche che dovrebbero essere in atto in questa città in questo momento. Per cui l'occupazione vuole dire soluzioni abitative, soluzioni concrete per chi sta cercando casa, perché abbiamo conosciuto in queste settimane, per chi è stato sgomberato anche dall'occupazione di Home, vuol dire soluzioni concrete per chi cerca casa, per chi sta su divani, per chi sta in Airbnb, per chi sta per strada, vuol dire organizzarsi insieme, organizzare la lotta per il diritto all'abitare in questa città, connettendosi anche con altre lotte nel territorio e nel territorio nazionale. Noi oggi alle 16 faremo la prima assemblea pubblica, appunto per innescare un meccanismo di organizzazione con chi sta cercando la casa, con chi vi verrà a vivere qua, con chi vorrà venire a vivere qua, fra parte di questo progetto. E il piano dell'amministrazione comunale, comunque l'amministrazione comunale ha fatto delle cose, ma chiaramente non sono sufficienti. Se le misure comunque che riteniamo positive, l'abbiamo detto a più riprese, però danno soluzioni nel medio-lungo periodo, le persone stanno cercando casa adesso e tante stanno rinunciando anche a venire a vivere a Bologna o restare a vivere a Bologna, per cui noi vogliamo conquistarci il diritto di restare in questa città, perché ci sono le persone che lavorano, che producono il tessuto sociale, urbano, ed è impensabile che la città le spella, altrimenti Bologna veramente diventerà come Venezia, in cui ci saranno i biglietti dall'1 gennaio 2024 per entrare in città, e in cui i posti letto per turisti superano quelli per residenti. Il governo, dall'altra parte, le uniche misure fatte sono state i tagli dei fondi, il contributo per l'affitto al fondo per la morosità incolpevole. Inoltre ci sono 660 milioni del PNRR gestiti dal Ministero dell'Università per la creazione di posti letto per studenti e studentesse, che saranno destinati solo a operatori privati, e per noi questa è una cosa inaccettabile, perché così come vediamo nell'Istituto Santa Giuliana che l'iniziativa privata spesso, molto spesso, lede l'interesse pubblico, quei 660 milioni non possono andare a gruppi immobiliari, a chi investe nello student housing per fare gestione speculativa del patrimonio immobiliare.